Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Fino a che punto si può amare e sostenere una persona? Fino a che punto possiamo difendere una persona che stimiamo all'inverosimile? Nell'ambito della psicologia, questo viene chiamato selezione parentale, cioè sono i meccanismi di selezione, diciamo, degli animali che portano a comportamenti di altruismo nei confronti delle persone con cui ci sono legami ravvicinati. In poche parole, vogliamo aiutare tutti quelli a cui vogliamo bene, anche a discapito di noi stessi e delle energie che possiamo spendere per dedicarci a loro. Però bisogna chiedersi se potremmo essere capaci di avere attenzione, atteggiamenti di dedizione nei confronti di chi non conosciamo per niente. Ce lo stiamo chiedendo perché la storia di oggi è questa: una donna che ha passato gran parte della sua vita a aiutare una persona che conosceva pochissimo. Tutto quello che sapeva era un riflesso di informazioni ottenute da altre fonti. Eppure questa donna a un certo punto ha deciso che l'obiettivo primario della sua esistenza sarebbe stato quello di far affiorare una personalità, di farla sbocciare come uno dei grandi girasoli che dipingeva. Lo sconosciuto in questione, cioè l'oggetto dell'amore di questa donna, si chiama Vincent Van Gogh. La donna che ha permesso a tutti noi di conoscere il talento immenso di Van Gogh si chiama Joanna Bonger ed è sua cognata. Eh sì, nessuno forse avrebbe potuto apprezzare l'arte di Van Gogh se non fosse stato per lei, per Joanna, che ha portato il peso, la responsabilità di questo artista per anni. Lei era sentimentalmente legata a Theo, fratello di Vincent, e ha deciso che Van Gogh, cioè suo cognato, non poteva e non doveva restare sconosciuto, avrebbe meritato molto altro. Ha voluto ridare dignità a tutto il lavoro che Van Gogh aveva svolto durante tutta la sua vita, per il quale da vivo non aveva ottenuto il giusto riconoscimento. Bisogna partire dall'inizio, dal 4 ottobre 1862, il giorno in cui a Amsterdam nasce Joanna Bonger, la quinta di sette figli, una bambina allegra, vivace, che studia pianoforte, studia inglese, arriva alla laurea e al primo impiego al British Museum di Londra. Poi a 22 anni torna a Amsterdam, comincia a insegnare inglese in una scuola superiore e in questo periodo conosce Theo Van Gogh, fratello di Vincent. È un colpo di fulmine, lui rimane affascinato da questa donna e si dichiara, lei non è inizialmente interessata a una relazione con lui. Trascorre ancora un anno da quella prima dichiarazione d'amore, però loro fanno parte della stessa cerchia di amici, si vedono spesso, Theo insiste e alla fine la vince. I due si sposano a Amsterdam il 17 aprile del 1889 e fin da subito Joanna sa quello che la aspetterà, perché Theo è molto legato a suo fratello, lo aiuta economicamente e emotivamente, farebbe di tutto per poter concretizzare l'affermazione di questo fratello Vincent Van Gogh che vuol dipingere. Ma come sappiamo, Vincent soffre di disturbi psichici nel corso della sua vita, vivrà molti episodi depressivi. Questo sarà un fattore determinante durante tutta l'esistenza dei coniugi Van Gogh. Stiamo parlando di un legame fraterno forte, viscerale, che indurrà Theo addirittura a chiamare il figlio come suo fratello, Vincent. E Joanna lo conosce poco, però accetta tutto questo, sarà sempre disponibile nei confronti del pittore, nonostante lei sappia che la sua imprevedibile e fragile personalità potrebbe anche ferire i sentimenti di suo marito. È così che la peggiore delle loro paure si realizza quando una mattina d'estate Vincent Van Gogh si spara un colpo al petto con una pistola. Due giorni dopo morirà e il 29 luglio 1890 Vincent ha 37 anni e addosso gli viene trovata un'ultima lettera per Theo, una lettera che Van Gogh non ha fatto tempo a finire di scrivere. Mio caro fratello, vorrei scriverti a proposito di tante cose, ma ne sento l'inutilità. E poi è vero, noi possiamo far parlare solo i nostri quadri. Eppure, mio caro fratello, c'è questo che ti ho sempre detto e che ti ripeto ancora una volta. Tu, per mezzo mio, hai partecipato alla produzione stessa di alcuni quadri, che pur nel fallimento totale, conservano la loro serenità. La coppia Van Gogh è distrutta e angosciata. partecipa assieme a poche altre persone ai funerali del pittore. Teo è stanco e affaticato dagli ultimi anni che lui ha dedicato esclusivamente al fratello. Si chiede se avrebbe potuto far qualcosa per evitare quell'epilogo, ma non riesce a sopportare questa condizione. È già malato di sifilide e morirà anche lui 6 mesi dopo, lasciando Joanna, non ancora trentenne, da sola con il loro bambino Vincent. Il falco e il gabbiano. Siamo nel 1891. Joanna Bonger, la nostra protagonista, è vedova. Il marito è morto, forse anche in seguito al dispiacere per la morte del fratello del marito, che è Vincent Van Gogh. A lei rimane un appartamento a Parigi e le rimangono 200 opere senza alcun valore, 200 opere di Vincent Van Gogh. Il pittore nella sua vita era riuscito a vendere solo un quadro, La Vigna Rossa. L'aveva venduto a un'amica che probabilmente l'aveva anche comprato più per amicizia che per reale interesse. Joanna non è una pittrice, non è una critica d'arte, non ha neanche grandi competenze nell'ambito artistico, però è convinta che la personalità nelle tele del cognato valga molto di più di un posto in una cantina buia e umida. E pensate che c'è chi le suggerisce di distruggere quel patrimonio inutile. Lei invece ha in mente un piano di promozione. Torna in Olanda, riallaccia rapporti con alcuni suoi amici artisti e comincia a organizzare delle mostre nella capitale, mostre che non hanno successo. Nessuno è colpito da queste pennellate eccentriche fuori dai canoni di questo allora sconosciuto Van Gogh. A questo punto lei si convince che il problema non è la notorietà dell'artista, ma la collocazione geografica. Bisogna uscire dai confini olandesi e puntare altrove. È per questo che Joanna decide di spostare queste tele, questo capitale artistico per ora inutile, dall'Olanda alla Germania e alla Francia. A volte mi capita di discorrere con turisti interessati e racconto dettagli sulla genesi dei quadri, ma ci sono anche momenti in cui non dico nulla. Rimango davanti a un dipinto come ipnotizzata. Il mio segreto consiste allora nel concentrarmi su un minuscolo frammento della tela, un tocco fugace, una pennellata che pare condensare la totalità dell'opera. Quel gesto, molto spesso, attira lo sguardo di qualche viaggiatore. Joanna però non ha solo le opere, le 200 opere di Van Gogh. Nel cassetto della scrivania del marito, infatti, ha trovato anche le lettere che Vincent aveva indirizzato al fratello fino alla sua morte. E capisce che queste lettere potrebbero essere utili nella ricostruzione della biografia del pittore, anche della sua così tormentata anima. E lei comincia a tradurle. È un lavoro terribile, smisurato. Le lettere non sono datate, quindi hanno bisogno anche di una catalogazione cronologica, però lei sa che la loro diffusione potrebbe contribuire a far comprendere la particolare arte del cognato. Quasi tutto quello che noi sappiamo oggi di Van Gogh lo dobbiamo a questo, alla traduzione di queste lettere, perché Theo non ha avuto il tempo di far nulla per la memoria. Il fratello è morto poco dopo, quindi Joanna si impegna, sente che non è ancora il momento di condividere quella che lei considera una grande ricchezza, preferisce aspettare il momento giusto. Questa impresa continua per anni e si incrocia anche con un nuovo matrimonio, perché nel 1901 sposa Johan Cohen Gottschalk, che è un pittore olandese nato a Amsterdam. L'amore dura poco più di 10 anni, perché nel 1912 lei rimane nuovamente vedova, e molte persone a quel punto perderebbero ogni motivazione, qualsiasi tipo di speranza nei confronti della vita, ma non lei. Lei non si perde d'animo. Nel 1914 e capisce che il momento è quello giusto, pubblica le prime traduzioni delle lettere di Van Gogh al fratello Theo e poi dà disposizione affinché la salma del marito di Theo venga trasferita dal cimitero di Utrecht a Overschouwerwaze, la fa interrare accanto al fratello, a Vincent Van Gogh. Le due sepolture sono ancora oggi ricoperte dai rami di un'unica pianta di edera prelevata dal giardino del dottor Gascelo, psichiatra di Vincent van Gogh. A questo punto i due fratelli si sono ricongiunti per sempre. Ma intanto c'è la guerra mondiale, Joanna si rifugia in America, va a New York e qui esplora gallerie d'arte, musei, trascorre gran parte del suo tempo immersa nel lavoro di traduzione delle lettere dei due fratelli. Dopo la fine della guerra torna nella sua Amsterdam e qui lei intreccia nuovi rapporti, continua l'assiduo lavoro di promozione nei confronti del cognato Vincent, comincia a prestare alcune opere di Van Gogh alle più famose gallerie della zona, ha una relazione con un mercante d'arte, un certo Isaac Israels, comincia a rendere famoso il cognato e il suo piano prevede tre strategie: pubblicare le lettere un po' alla volta, proporre le opere alle mostre internazionali e vendere qualcosa ai migliori offerenti. Lentamente ci sta riuscendo. Nessuno dei Van Gogh sembra aver compreso la portata dell'eredità artistica del pittore. Neppure la madre ha dimostrato il benché minimo interesse. Delle tele rimaste, non sapeva che farsene. Ho sempre saputo che Van Gogh aveva sofferto quando si era reso conto di questo disprezzo per la sua arte. I quadri spettano a me e a nostro figlio più che a chiunque altro della famiglia. E comincino pure a chiamarmi con sufficienza la vedova Van Gogh. Questa donna, che sa poco o nulla del cognato, è determinata, vuole che la fama del pittore si diffonda in tutto il mondo. Per riuscirci è pronta a qualsiasi cosa. Grazie all'aiuto di alcuni amici artisti, le gallerie cominciano a comprare delle opere di Van Gogh e cominciano a apprezzare i tratti grafici, insomma lo stile che caratterizza Van Gogh. E quelle che riscuotono più successo sono le stesse che ancora oggi sono diventate, insomma, il simbolo di questo pittore, i girasoli per esempio. Bisogna parlare al plurale perché dei girasoli non c'è una sola versione, ci sono decine di tele raffiguranti questi fiori realizzate tra il 1888 e il 1889. Alcune di queste, quando Van Gogh viene trovato morto, non si erano pensate, non si erano ancora nemmeno asciugate. Ho camminato in mezzo ai quadri, mi sono fermata solo davanti al mandorlo in fiore che ha dipinto per mio figlio. E mi ha divertito come non mai la sensazione di vedermi come un'intrusa, una fra le tante spettatrici che sfilavano davanti alle immagini come a messa. C'è chi parla di Van Gogh al presente come se non fosse morto. Ecco qua. D'ora innanzi, Vincent Van Gogh sarà il nome di un artista. E se solo Vincent Van Gogh fosse riuscito a resistere al male oscuro, se non si fosse ammazzato, se fosse vissuto ancora qualche anno, forse avrebbe assistito alla rivalutazione totale delle sue opere. Beh, Joanna Bonger ci ha creduto fin dal primo momento e lei non vuole solo vendere i quadri del cognato, lei vuole esporli, è intenzionata a mostrare al mondo la vera personalità di Van Gogh. Così nel 24 fa un incontro fondamentale per quello che è stato il suo scopo, lo scopo della sua vita. La fama dell'artista comincia piano piano a concretizzarsi. Il falco e il gabbiano. Oggi stiamo raccontando la storia di Joanna Bonger ed è legittimo che questo nome possa anche esservi sconosciuto, perché lei non è famosa, però è una donna rivoluzionaria, anticonformista. Siamo tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Bene, Joanna Bonger era la cognata di un pittore allora sconosciuto morto suicida. Questo pittore si chiamava Vincent Van Gogh, è l'unica responsabile della rivalutazione dell'immenso patrimonio artistico di Van Gogh. Grazie a lei Van Gogh ha quel successo che non era riuscito a conoscere in vita. Per poter svolgere questo compito così laborioso, Joanna si è lasciata guidare dalle lettere che Vincent scriveva al fratello Theo durante la sua esistenza, lettere che piano piano l'aiutano a conoscere l'arte di Van Gogh, a discernere le fasi della sua pittura, a disegnare un profilo caratteriologico dell'artista, che aveva peraltro incontrato pochissime volte. È impegnata nel lavoro di promozione, anche fisicamente provata e stanca dalla fatica che tutto questo le ha portato. Nel 24 incontra Jim Mede, che è uno dei pochi reali intenditori inglesi di arte moderna e il curatore della National Gallery di Londra. La richiesta è molto chiara. La più famosa galleria d'arte moderna inglese vuole esporre diverse opere di alcuni artisti, tra cui Vincent van Gogh. Per farlo vuole acquistare uno dei girasoli, perché li considera come i soggetti più rappresentativi dell'intera carriera pittorica di van Gogh. Gimede chiede a Joanna di vendergli uno dei quadri più importanti del pittore e le promette che ne avrà la massima cura. È una pretesa non da poco quella del responsabile della National Gallery, perché va considerato che intanto Joanna è molto legata alle tele dei girasoli, perché sa che sono importanti, sa anche che il marito Theo avrebbe voluto che li tenesse. Per questo motivo lei non vuole perderli e né separarsene. La risposta di Joanna è un semplice e diretto: non sono in vendita. Poi Joanna nei giorni successivi riflette a fondo su quell'incontro, sulla possibilità che Vincent van Gogh avrebbe potuto avere se il suo quadro fosse stato acquistato da una galleria d'arte così importante, e così scrive una lettera a Jim Eade dichiarando che anche se a malincuore avrebbe venduto il dipinto alla National Gallery per poter dare l'occasione al cognato scomparso. Egregio Mr. Eade, in cuor mio ho cercato di oppormi alla vostra richiesta. Contemplo quel quadro ogni giorno da 30 anni. Non sopporto l'idea di separarmene, ma ho capito che nessun altro quadro potrebbe rappresentare Vincent in modo più eloquente. Lui lo avrebbe voluto lì, nella vostra galleria. È un sacrificio che devo fare per la sua gloria. Come abbiamo detto, Joanna ha imparato a conoscere il cognato grazie alle parole che lui scriveva al fratello Theo. Da questi testi sa che Vincent amava molto andare alla National Gallery, era un grande ammiratore dell'arte, della cultura britannica, e quindi alla fine lei pensa che poter ammirare un suo quadro, anzi forse il più rappresentativo dei suoi quadri, in uno dei musei più famosi del mondo sarebbe stata la grande rivincita di Van Gogh, e vuole realizzare il sogno del cognato. E così Vincent van Gogh entra nell'Olimpo dei grandi artisti. Uno dei suoi girasoli risplende in tutta la sua bellezza alla National Gallery. La missione di Joanna è compiuta e lei fa giusto in tempo a constatare il clamoroso successo dei girasoli. Un anno dopo muore a 62 anni, il 2 settembre 1925, mentre sta ancora traducendo le lettere di Vincent van Gogh. In tutto lei possedeva 600 opere di van Gogh, molti disegni e altre 200 opere appartenenti a altri artisti. Di tutto questo patrimonio la donna vende solo una parte. Insomma, la domanda è spontanea: che fine hanno fatto le altre opere in suo possesso? La maggior parte delle opere possedute da Joanna verranno raccolte in quello che poi è diventato il Van Gogh Museum di Amsterdam. Stiamo parlando di uno dei principali luoghi di esposizione della collezione artistica di Van Gogh. È stato inaugurato nel 1973. Dalla morte di Joanna sono trascorsi 50 anni, 50 anni nei quali ci sono stati numerosi conflitti. Si teme per esempio che il caos generato dalla Seconda Guerra Mondiale abbia influito drasticamente sulla collezione di Van Gogh, di alcune opere si è persa qualunque traccia, forse sono andate distrutte o forse si trovano nella collezione privata di qualcuno che magari ne è venuto in possesso in maniera illegale, rocambolesca. E la guerra non è stata l'unica minaccia alla fama di Van Gogh. Molte delle sue opere sono state al centro di grandi discussioni a causa di numerosi tentativi di imitazione. In Germania l'entusiasmo era così alto che cominciano a diffondersi i primi falsi. Uno dei casi più famosi di falso Van Gogh è quello avvenuto verso la metà degli anni 20, il periodo successivo alla vendita dell'ultimo quadro da parte di Joanna. Un certo Otto Wagner Bacher, è un gallerista di Berlino, commissiona decine e decine di quadri fasulli che vengono valutati come dipinti autentici, anche perché l'unica che poteva stabilire con certezza se fossero autentici o meno era Joanna, ed era mancata proprio in quel periodo. Solo successivamente gli esperti si accorgeranno dell'errore, Bacher verrà condannato per truffa e la persecuzione dei falsi Van Gogh continuerà per decenni, forse è ancora all'ordine del giorno. C'è un quadro del pittore che si chiama Tramonto a Montmajour, che arriverà alla sua consacrazione, se così si può dire, solo nel 2013. Era un'opera appartenuta prima a Teo, al fratello, poi a Joanna, che l'aveva venduta nel 1901, e poi non si era più saputo niente di questa tela fino al 1908, anno in cui era stata acquistata da un uomo d'affari norvegese, che era convinto però che si trattasse di un falso, che l'aveva tenuto nella sua cantina per anni. Insomma, una follia che dura per più di un secolo, fino a quando il museo Van Gogh non ne aveva sancito l'autenticità, grazie anche alle traduzioni delle lettere di Vincent a Theo, nel quale si parla appunto del paesaggio dipinto nella tela, il paesaggio di Montmajour. Le lettere di Van Gogh al fratello Theo non sono l'unica testimonianza che ci rimane di Joanna, della nostra protagonista di oggi, anche perché lei tiene anche un diario nel quale in qualche modo racconta di tutti questi sentimenti che le hanno donato, questa grande energia che le ha permesso di consegnare al mondo l'arte di uno dei più grandi pittori del XX secolo. Da alcuni giorni mamma Van Gogh è qui. Oggi nel pomeriggio siamo rimaste a sedere in veranda. Mi ha parlato di tante cose, di aneddoti familiari, di ricordi del passato che amo moltissimo ascoltare. Devo conoscere tutto su Vincent. E poi mi accingerò a scrivere la sua vita. Anche il suo rapporto con la madre di Van Gogh in qualche modo è determinante per la conoscenza che poi il mondo ha avuto del grande pittore. E la storia di Joanna non è nota. Noi sappiamo di Van Gogh, sappiamo qualcosa del fratello, eppure lei, che non conosceva molto bene Van Gogh, si è battuta per permettere che le opere di questo artista potessero girare in tutto il mondo. Era una vera e propria ossessione, nobilissima ossessione. L'aveva incontrato 2 o 3 volte, eppure lo ha aiutato a raggiungere l'immortalità. È riuscita a vendere 250 opere di Van Gogh e è stata a tutti gli effetti l'unica custode dell'eredità di Vincent Van Gogh. Ci sono persone che hanno dato grandi colpi d'ala e persone che hanno fatto della loro vita una, come dire, un'opera meritoria per aver ridato giustizia a qualcun altro, cioè un colpo d'ala per interposta persona. Questa è stata Joanna Bonger, la donna grazie alla quale noi conosciamo Vita, Morte, Miracoli, è proprio il caso di dirlo, di Vincent Van Gogh. Se avete delle storie che volete che noi si racconti, scrivete al falco il gabbiano @radio24.it, scrivete al nostro sito, venite a trovarmi nei miei, nei nostri social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simona Capodanno e Raffaella Dentice, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.